Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per me la missione del PD è qui: dare un'anima democratica all'Europa, prendersi cura dell'Italia da curare, affermare una identità culturale, sociale, umana, di un patriottismo dolce che restituisce dignità politica alla politica e bellezza all'Italia. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia e grazie a tutti voi per questa avventura che inizia oggi. Questo è il finale, ma anche la sintesi, diciamo, del discorso programmatico, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, ha tenuto oggi al Lingotto di Torino, l'ex stabilimento della Fiat, ormai diventato un centro congressi, da dove è voluto ripartire Renzi, un luogo molto simbolico dove era stato eletto Veltroni, e di lì lui ha lanciato la sua convention per la corsa alle primarie, quindi alla segreteria del partito. Ne parleremo, faremo anche un'analisi, insomma, dei vari passaggi di questo discorso per capire dove vuole andare Renzi col suo PD e dove vuole andare il PD di Renzi, visto che poi ci sono anche gli altri due candidati, Orlando ed Emiliano. Orlando oggi ha replicato più volte, Emiliano si farà sentire probabilmente nei prossimi giorni. Insomma, comunque la corsa ufficiale è partita per la segreteria del Partito Democratico. Poi in corsa questa sera in Effetto Notte ci occuperemo, come al solito, di tante cose. Torneremo ancora sulla tragedia di ieri del Cavalcavia, capiamo quali sono gli aggiornamenti. Autostrade per l'Italia chiesto una relazione alle aziende che lavoravano lì al Cavalcavia per capire quali sono le responsabilità. Poi ci sarà il meteo, poi aggiorneremo anche sulla partita, l'anticipo di Serie A Juventus-Milan, che per il momento vi dico è 0-0. Insomma, tanti fatti, tante notizie, come sempre, per essere costantemente aggiornati qui Effetto Notte, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Riassunto della giornata. Partito Democratico, Renzi lancia la sua candidatura alla segreteria ripartendo dal Lingotto di Torino. Mai più paura del futuro, dice il PD, detti l'agenda del paese. Il vertice europeo, l'Unione Europea si spacca sul concetto di Europa a più velocità, no dei paesi dell'est. Il presidente della Commissione Juncker sottolinea, è per permettere che chi vuole fare di più possa fare di più. Disoccupazione diminuisce nel 2016, dicono i dati Istat, e con numeri da pre-crisi economica, quasi 300.000 posti in più. Il ladro ucciso nell'Odigiano risulta indagato per omicidio volontario, il ristoratore che ha sparato appunto vicino Lodi, il sindaco dice siamo con lui. Il crollo del ponte sulla 14, Autostrade per l'Italia, vuole chiarezza su chi ha progettato ed eseguito i lavori sul Cavalcavia per accertare eventuali errori umani e valutare possibili azioni a tutela. Corea del Sud, destituita la presidente, due morti negli scontri dopo il sì all'impeachment, tafferugli con la polizia a Seul. Egitto, trovata una statua gigante di Ramses II in una baraccopoli al Cairo. Calcio in campo per l'anticipo di Serie A, Juventus-Milan. Partiamo quindi dal Partito Democratico con uno dei protagonisti delle prossime primarie del partito, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha lanciato appunto la sua campagna dal Lingotto di Torino. Renzi ha iniziato il suo discorso con un messaggio per Orlando e Emiliano, ha detto auguri a voi di buon lavoro, assicurazione che da parte nostra mai una polemica ad personam come quelle che abbiamo subito noi per settimane. E ribadisce Renzi, siamo convintamente a fianco di Gentiloni, dobbiamo ripartire, rilanciare sugli ideali, i contenuti, restituire una speranza al paese. Il PD deve rivendicare il futuro come cifra della sinistra e non rassegnarsi a che la paura sia l'arma elettorale degli altri, è il tema dominante. Matteo Renzi apre al Lingotto di Torino la sua campagna congressuale per la segreteria PD. O il Partito Democratico dà una visione o diventa un soggetto che non esiste più. Dover ripartire dopo un brusco stop, quello del 4 dicembre, quello del referendum, ma anche di dover ripartire rispetto al post-referendum. Da 3 mesi la politica italiana sembra bloccata. Sembra che qualcuno sogni di riportare indietro le lancette della storia. Vogliamo ricostruire un orizzonte di speranza concreto, se no il futuro appartiene solo a chi dice no. La politica deve essere capace di indicare una direzione, non dividersi tra correnti. A fianco del governo Gentiloni c'è anche un messaggio ai competitor. Orlando ed Emiliano augura un buon lavoro e l'assicurazione che non ci sarà mai polemica ad personam. C'è poi l'Europa e per Renzi bisogna andare verso la democrazia e non verso la burocrazia. E poi, come vi ho detto, torneremo sulla tre giorni di Renzi iniziata oggi a Torino. Il vertice europeo adesso non piace a tutti, un'Europa a diverse velocità. Il paese del V4 annuncia, i paesi dell'est annuncia, così la premier polacca Beata Szydlo, non saranno mai d'accordo a parlare di un'Europa a più velocità. Ma dal vertice di Bruxelles l'indicazione di andare avanti non cambia. Gentiloni fissa le quattro priorità per il vertice di Roma, che ci sarà prossimamente. Cancelliera Merkel è ottimista, che dice avremo una buona dichiarazione di Roma, e il presidente della Commissione europea Juncker precisa un'Europa a diverse velocità e per permettere a chi vuole di fare di più che possa fare di più. E sentiamo cosa ha detto il nostro presidente del Consiglio. I grandi obiettivi sono quelli di una Europa che riesca a difendere i propri cittadini nella sicurezza, nel contrasto al terrorismo, nella gestione, nella regolarizzazione dei flussi migratori, secondo di un'Europa della crescita, dello sviluppo sostenibile, del lavoro, terzo di un'Europa sociale, quarto di un'Europa che abbia un ruolo, direi, sempre più richiesto e urgente sul piano geopolitico. Adesso i dati sul lavoro. Secondo l'Istat cresce l'occupazione in Italia. Nel 2016 l'incremento è stato di 293.000 posti rispetto all'anno precedente. Un anno, il 2016, che secondo l'Istat si chiude con la media più alta degli occupati dall'inizio della crisi. L'incremento sull'anno precedente è stato dell'1,3%, pari a 293.000 posti in più, raggiungendo quota 22.758.000, il dato più alto dal 2009. I disoccupati sono scesi di 21.000 unità, con il relativo tasso che passa dall'11,9% all'11,7%. La maggiore occupazione coinvolge, oltre agli over 50, anche i giovani tra i 15 e i 34 anni. Soddisfatto il governo, c'è ancora tanto da fare, dice il presidente del Consiglio Gentiloni, ma ci sono passi in avanti sia in termini di aumento del numero degli occupati, sia per la riduzione della percentuale dei disoccupati. Critiche però le opposizioni. Il governo racconta favole, dice Sinistra Italiana, aumenta il gap occupazionale tra donne ed uomini, spiegano da Forza Italia. Luce d'ombre per il sindacato, il quadro è incoraggiante, commenta la UIL, ma attenti alla qualità del lavoro. 18 miliardi di sgravi e solo lo 0,2 di disoccupazione in meno, fa notare la CGIL, risorse che si potevano spendere diversamente. Cronaca: sarebbe stato raggiunto da un solo colpo alla schiena il ladro ucciso la notte scorsa nel corso di un furto in un locale di Casaletto Lodigiano in Lombardia. L'uomo è stato trovato ad alcune decine di metri dal ristorante, probabilmente trascinato dai suoi complici. A sparare è stato il ristoratore Mario Cattaneo, 67 anni, che ora risulta indagato per omicidio volontario a sua garanzia. Questa è l'espressione usata. Abbiamo ritenuto di sentirlo con le più ampie garanzie, quindi con un legale, ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro. E sono 10 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sul gruppo del Sole 24 Ore relativa ai dati degli abbonamenti digitali. Con l'accusa di false comunicazioni sociali sono indagati, tra gli altri, l'ex presidente del gruppo Benito Benedini, l'ex amministratrice delegata Donatella Treu e il direttore del quotidiano di Radio 24 Roberto Napoletano. Un secondo filone delle indagini, che vede il Sole 24 Ore come parte offesa, riguarda invece la presunta appropriazione indebita e vede coinvolto anche l'ex direttore dell'area digitale del Sole 24 Ore, Giuseppe Stefano Quintarelli, ora deputato nel gruppo misto. Confindustria ha confermato piena fiducia alla magistratura, ribadito che valuterà tutte le azioni necessarie a tutela propria e degli altri azionisti, piena collaborazione ribadita anche dai nuovi vertici del gruppo 24 ore. Il direttore Roberto Napoletano si dice certo di poter dimostrare in tutte le sedi la piena linearità dei suoi comportamenti. L'Assemblea dei giornalisti di Radio 24, apprendendo con forte preoccupazione lo sviluppo dell'indagine avviata dalla Procura di Milano sul gruppo 24 ore, proclama lo stato di agitazione con lo sciopero delle firme. Infatti non sentirete le firme nei servizi, nel GR, al comitato di redazione. Un pacchetto affida di 5 giorni di sciopero, al di là dei risvolti giudiziari sui quali sarà la magistratura a pronunciarsi. L'Assemblea chiede all'editore di dare un immediato segnale di discontinuità per garantire un futuro all'azienda in grado di tutelare la credibilità, il patrimonio giornalistico di Radio 24 e di tutto il gruppo 24 ore. Il crollo del ponte sulla A14, il crollo di ieri, Autostrade per l'Italia vuole chiarezza su chi ha progettato e eseguito i lavori sul cavalcavia crollato ieri sulla A14, che ha provocato 2 morti, per accertare eventuali errori umani e valutare possibili azioni a tutela. Secondo gli inquirenti, nel cantiere al momento del crollo lavoravano almeno 2 ditte, ma ce ne sarebbero altre, dicono, che stiamo cercando di individuare. Il PM, titolare dell'indagine, valuta se esistono i presupposti per ipotizzare il reato di disastro colposo, e poi sentiremo quali sono appunto gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda. All'estero, Volkswagen si dichiara colpevole davanti alla giustizia americana di frode e ostruzione alla giustizia nello scandalo del Dieselgate, una missione davanti al tribunale di Detroit che rientra nell'accordo raggiunto in gennaio negli Stati Uniti, nell'ambito della quale Volkswagen si impegna a pagare 4,3 miliardi di dollari in sanzioni civili e penali. E ora in Sud Corea, la Corte Costituzionale sudcoreana ha approvato la procedura di impeachment, avviata quindi lo stato messa in stato d'accusa della presidente coreana, avviata a dicembre dal Parlamento, la presidente che Park Geun-hye, per il coinvolgimento nello scandalo della sua stretta confidente Choi Soon-sil Park. E adesso di nuovo in Italia, oggi a Milano, nella parrocchia di Sant'Ildefonso, l'ultimo saluto in una chiesa a DJ Fabo, il quarantenne che vi ricordate, di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, che dopo un grave incidente era rimasto paralizzato e cieco, che aveva deciso di mettere fine alle sue sofferenze andando a morire in Svizzera, e che ha riaperto il dibattito sul biotestamento. Poi ne parleremo con chi ha seguito oggi questo omaggio. E adesso invece parliamo dell'Egitto, perché c'è stata un'importante scoperta degli archeologi di una missione tedesco-egiziana. Si tratta di una statua gigante alta 8 metri che si ritiene raffigurasse il faraone Ramses II. Accanto alla statua gigante anche un'altra di circa un metro di Seti II. Le due statue sono state scoperte in un quartiere popolare del Cairo. Il ritrovamento è avvenuto in un'area nei pressi di un tempio di Ramses II, dove sorgeva l'antica Eliopolis. Le due statue risalgono alla 19esima dinastia. Per chiudere il calcio, con l'anticipo di Serie A, Juventus-Milan sempre 0-0. Giovanni Capuano? Eccoci, sì, sempre 0. Si sono giocati 26 minuti del corso del primo tempo. È una partita che la Juventus sta dominando, nel senso che è padrona del campo, ha già avuto diverse occasioni. Donnarumma fin qui è assolutamente il migliore dei suoi e il migliore in assoluto dei 22 che si stanno vedendo questa sera. Stadium è stato decisivo dopo 4 minuti su un sinistro ravvicinato di Piazza, che gioca al posto di Mandzukic, fermato da una colica, e poi ancora ha sfiorato la rete all'ottavo, il suo destro a giro è andato davvero a un centimetro dal palo della porta del, e poi ancora ha innescato un'azione al nono di Dybala con un respinto da Donnarumma, che si è ripetuto ancora un paio di minuti fa su Higuain. Insomma, da come si legge il taccuino di che cosa è successo in questi primi 27 minuti, il dominio della Juventus, che allo Juventus Stadium vince da 30 partite e che oggi vuole conquistare i 3 punti per restare quantomeno a più 8 sull'inseguitrice Roma, cosa che a 10 turni dalla fine del campionato metterebbe ulteriormente in sicuro la volata per lo scudetto. Dicevo, gioca Mandzukic, che ha avuto una colica, al suo posto c'è Piazza, ma Allegri si è tenuto il 4-2-3-1, c'è anche un forfè delle ultime ore nel Milan, non gioca Suso, al suo posto c'è Ocampos. Milan però che in questo momento sta soprattutto difendendo. Con una minimo viola, perché e non poteva essere diversamente, Juventus-Milan, c'è stata anche la protesta, il caso da Moviola, 8° minuto, questa volta a protestare sono stati i giocatori della Juventus, c'era un calcio di rigore per un tocco di Zapata su Dybala, la designazione di arbitro era stata ceduta da polemiche e sicuramente sarà seguita da altrettante discussioni. Giovanni Capuano, senti, 0-0, sì. Giovanni, poi ci risentiamo dopo, ma c'è un folletto nel tuo telefono, cerca di migliorare la linea perché ti abbiamo sentito in certi momenti a singhiozzo, ma comunque la sintesi è chiara. 0-0 Juventus-Milan, ci risentiamo più tardi con Giovanni Capuano. Intanto, prima di aggiornare chi sta viaggiando con la viabilità, torno sui vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666. C'è chi esprime assoluta solidarietà al ristoratore, dice questo ascoltatore, che ha liberato la comunità da un delinquente. È chiaro che ogni volta che ci sono casi come questi di qualcuno che si vede derubare, rapinare, soprattutto appunto nel corso della notte in casa, ci sono queste reazioni di difesa. Poi naturalmente ritorna di nuovo l'annoso dibattito su fino a dove possa arrivare la legittima difesa. Quindi vedo vari messaggi di questo tipo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco torniamo però sulla politica. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E aggiorno subito i tifosi juventini, perché la Juventus ha appena fatto un gol sul Milan, 1-0 per il momento, in anticipo di Serie A, Juventus-Milan 1-0. Adesso però andiamo su cose, diciamo, più serie, più prosaiche, parliamo di politica. Tra poco vi ricordo anche i fatti principali, se non avete acceso puntualmente alle 21. I vostri messaggi ve lo ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. I fatti principali sono appunto che Renzi dice basta paura, oggi ha lanciato la sua kermesse in vista delle primarie a Torino, all'Ingotto di Torino, ha detto basta paura, ci vogliono ideali per ridare speranza al paese, siamo con Gentiloni, quindi confermando il sostegno al governo. E poi per la politica, Salvini, leader della Lega, domani sarà a Napoli tra le polemiche, perché oggi i centri sociali hanno occupato la sala dove era prevista una manifestazione col leader leghista, è stato sciolto il contratto con i proprietari di questa sala, però Salvini dice che domani sarà comunque a Napoli e dice a Napoli lo Stato non esiste. E poi per quanto riguarda l'Unione Europea, visto che c'è stata una 2 giorni di vertice a Bruxelles, si spacca sull'Europa a più velocità, adesso questo sembra il concetto predominante tra i vari paesi europei, ma non sono d'accordo i paesi dell'est, e in capo a tutti c'è la premier della Polonia, poi ne parleremo anche di questo. Il caso di cronaca con il ristoratore che ha sparato e ucciso un ladro che è entrato nella sua proprietà di notte vicino Lodi, è stato colpito alla schiena, l'uomo, il ristoratore, è indagato e ci sono naturalmente come sempre polemiche politiche sul concetto di legittima difesa. E poi disoccupazione giù nel 2016, questo dicono i dati Istat, occupati al top dal 2009, più lavoro soprattutto fra gli under 35. E poi il crollo del ponte sull'autostrada di ieri sulla 14, Autostrade per l'Italia, valuta errori e intanto verifiche per gli appalti di più ditte che erano al lavoro. Questa scoperta in Egitto, una statua di Ramses II, gigantesca, spunta tra il fango al Cairo. E poi per la partita, vi ho detto, Juventus-Milan 1-0. E con oggi si può dire che è partita ufficialmente la corsa quindi alle primarie del Partito Democratico per conquistare la segreteria del partito. Lo sapete che in campo ci sono l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, Andrea Orlando, ministro della Giustizia, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi oggi, è iniziata ufficialmente questa corsa perché ha lanciato la convention di 3 giorni oggi a Torino, all'Ingotto, l'ex stabilimento della Fiat che è diventato un centro congressi. Lo slogan della convention era tornare a casa per ripartire. Renzi nel suo discorso d'apertura ha dedicato un messaggio a Orlando, a Emiliano, i suoi contendenti, dicendo che a loro auguro buon lavoro, l'assicurazione che da parte nostra mai una polemica ad personam come quelle che invece abbiamo subito noi in questi giorni. Ha detto dobbiamo ripartire dopo il brusco stop del referendum, ma direi di cominciare a far sentire qualcuno dei passaggi, per esempio quando dice che il PD è cosa diversa da altri partiti che hanno più o meno, poco meno della percentuale, almeno nei sondaggi attualmente, del Partito Democratico. Il PD in Italia è l'unica alternativa al doppio modello, partito azienda da una parte, partito algoritmo dall'altra. E da questo punto di vista non c'è da sorridere, c'è da essere tristi per questo. Noi saremo felici quando il PD non sarà l'unico partito che pratica la democrazia interna. Noi saremo felici quando i dati del PD non saranno un'eccezione. E anche se indirettamente si riferiva a, come avrete capito, a Forza Italia, Movimento 5 Stelle, e poi insiste sul fatto che non bisogna avere paura, che bisogna puntare al futuro. Ma nel tempo che stiamo vivendo mi piace pensare che la caratteristica della nostra comunità, la caratteristica del nostro partito, debba essere innanzitutto la capacità di rivendicare il futuro da questa parte del campo. Anche se il futuro non va più di moda, anche se il futuro non è più quello di una volta, io penso che questa sia la sfida oggi che noi dobbiamo lanciare dall'Ingotto. Noi non possiamo accettare il principio che la paura sia l'arma elettorale degli altri. E poi ha confermato il sostegno, per quanto riguarda la sua mozione, la sua proposta, insomma, alla segreteria del Partito Democratico, al governo Gentiloni, sostegno al governo. Siamo convintamente a fianco del governo guidato da Paolo Gentiloni, tutti insieme. Non siamo qui per ripartire, perché non ci siamo mai fermati. Non siamo qui per motivarci, perché siete più motivati di me. Non siamo qui per cercare il titolo di giornale. Dice là che siamo venuti a fare. Siamo qui per discutere. Siamo qui per discutere, allora discutiamone e commentiamo questi passaggi e insomma altri aspetti di questo discorso di Renzi nel primo giorno della sua convention a Torino con Paolo Pombeni, politologo dell'Università di Bologna e collaboratore del Sole 24 Ore. Pombeni, buonasera. Buonasera a lei e l'ascoltatore. Quindi ha risentito qualche passaggio, poi ne faremo sentire altri. Sì, sì. Come le è sembrato un Renzi ripartito dopo la sconfitta del 4 dicembre, dopo insomma che era rimasto un po' sotto traccia per diverso tempo? Come le è sembrato ritornato sul palco? Lui ha riproposto il suo personaggio, diciamo così, uno storytelling, come si usa dire oggi, cioè una narrazione forte. Con degli slogan anche indovinati, per esempio quello siamo eredi, non siamo reduci, dobbiamo batterci contro la paura, altre trovate a mio giudizio un po' più fragili, questa idea del nuovo sito web chiamato Bob da Bob Kennedy, ecco, sì, Bob Kennedy. Mi è sembrata un po' un'americanata, francamente, insomma, in contrapposizione, professore, in contrapposizione con Rousseau del Movimento 5 Stelle, dice, perché è più radicato nella storia concreta Bob Kennedy, no? Però non nella storia concreta di questo paese, insomma, si poteva trovare qualcosa di un di po' più meglio, vicino a noi, di più italiano. Di più vicino a noi, di più italiano, ma soprattutto anche che parlasse un po' di più a un pubblico un po' più vasto. Io temo che oggi Bob Kennedy non sia quello che si dice un momento di immediata identificazione. Professore, è possibile che lo abbia un po' mutuato dal fatto che era lì, che ricordava che è un luogo storico importante per il PD, perché lì appunto c'era stato anche Veltroni, che è uno che ha sempre molto guardato, certo, agli Stati Uniti, no? È possibile che abbia mutuato un po' da Veltroni? Sì, è assolutamente possibile questo. Naturalmente, sa, qui c'è sempre questo gioco un po' strano degli spin doctor, ciascuno dei quali corre a suggerire questa o quell'altra immagine come un'immagine che tutto sommato spiazzi. Questa è una tecnica, io personalmente credo che sia una tecnica che ormai sta un po' mostrando la corda, no? Cioè più che spiazzare bisognerebbe cercare di convincere. Professore, a parte appunto l'aver rimesso in auge un po' il sogno americano, personaggi che appunto appartengono a quel periodo della storia degli Stati Uniti, e dicevamo che ha ripreso probabilmente da Veltroni, è stato curioso il fatto che abbia rispolverato un termine che forse pochi magari associerebbero a Renzi. Lo sentiamo questo passaggio? Siamo qui per dialogare, siamo qui per dividerci se serve. Siamo qui per dibattere, restituendo il senso alla parola compagno. Perché compagno viene da cum più panis, colui che divide l'essenziale, la cosa più importante che ha. E io vorrei che noi riscoprissimo il gusto della discussione, della divisione, come nella civiltà contadina da cui proveniamo, le famiglie facevano intorno alla tavola, discutendo con la capacità di farsi carico gli uni delle ragioni degli altri. Il termine compagno, no, professor Pombeni, sì, è particolare che l'abbia tirato fuori forse per questa scissione che c'è stata a sinistra e magari di recuperare una certa identità del Partito Democratico ex PC e con tutta la sua storia poi di varie sigle. Ma io credo di sì, cioè io credo che Renzi voglia riaffermare, del resto l'aveva già detto anche un'altra volta, che non c'è nessuno che ha la privativa di che cosa vuol dire essere di sinistra. D'altronde questo rinvio alla società contadina è anche un rinvio al solidarismo, che è un'altra delle componenti storiche che sono confluite almeno idealmente nel PD, quella che viene dalla tradizione della sinistra cattolica, e quindi questa idea dello stare insieme, no? Questa idea appunto della condivisione, perché secondo me Renzi in questo discorso ha fortemente voluto sottolineare il fatto che in fondo lui ha capito che bisogna fare un discorso sul partito. Dopodiché questo discorso sul partito non può più essere il discorso sul partito ditta, deve essere il discorso su un qualcosa di diverso. E naturalmente qui c'è un punto di domanda, perché non è chiarissimo quale deve essere questa diversità nel momento in cui lui sa perfettamente che deve correre ad essere, diciamo, non semplicemente il partito dei, fra virgolette, militanti, ma il partito degli elettori. E adesso fra militanti e elettori non c'è più quella linea di continuità che c'era, diciamo così, nella Prima Repubblica. Professor Pombeni, poi ha parlato anche di Europa, ha detto che questa Europa è il vero luogo della battaglia politica, che è stata usata negli ultimi anni per imporre riforme non volute, quindi continua un po' questo braccio di ferro, no, con l'Europa per cercare di recuperare quello che era il disegno dei padri, io aggiungerei delle madri fondatori, no? E poi anche un concetto singolare, anche quello del prendersi cura, ha insistito sul fatto di prendersi cura, la cura della persona, quindi la salute, la solidarietà, i diritti, ha ricordato le varie riforme, leggi che sono passate col suo governo, dalla legge del dopo di noi, no, per i ragazzi disabili, la legge sulle unioni civili e una serie di altri provvedimenti. A Orlando oggi, l'altro suo contendente, Andrea Orlando, oggi i giornalisti che è nel suo tour nelle Marche in questo periodo, è stato chiesto, Emiliano ha detto che guarderà anche fuori dal Partito Democratico. Lei dove guarderà? Orlando ha risposto che, dice, usciamo dalla sindrome dell'autosufficienza, cominciamo ad ascoltare il paese, io guardo anche le altre forze politiche del centrosinistra con le quali dovremo costituire una coalizione. Quindi Orlando, diciamo, è inclusivo e probabilmente vorrebbe recuperare, no, chi se n'è andato a sinistra. Renzi, che le sembra da questo punto di vista? Ma io credo che Renzi, giustamente secondo me dal suo punto di vista, capisca che più che puntare a delle coalizioni parlamentari, almeno in questa prima fase, bisogna puntare a una inclusione elettorale. Lui ha il problema di vincere le elezioni, di avere un forte consenso. Ovviamente più un leader politico dice vabbè, ma domani noi faremo coalizione col partito X, Y, Z, più come dire, giustifica il fatto che gli elettori si dirigano verso questi partiti con l'idea poi questi troveranno un accordo col PD. Ma così facendo il PD si indebolisce. In questa prima fase il PD deve puntare a dire ma no, puntate su di noi. Poi dopo, se non sarà abbastanza, come insegna la tattica politica, in Parlamento si vedrà che fare. Però mi pare sbagliata questa idea della coalizione. In fondo è quello, mi permetterei di dire, che ha in qualche modo nuociuto a suo tempo anche a Prodi, no? Il quale è molto corso dietro a questa idea di Malulivo, poi la grande coalizione, eccetera, eccetera, per poi mettere insieme delle forze che alla fine l'hanno tradito. Professore Pombeni, le faccio sentire quest'ultimo passaggio del finale di Renzi, del suo discorso, in cui ha sintetizzato alcuni punti. Il patriottismo non ha niente a che fare con il conservatorismo, anzi è esattamente il contrario del conservatorismo. Il patriottismo è un ponte tra il passato e il futuro, ed è per questo, scrive Orwell, che il patriottismo e la sinistra dovranno prima o poi tornare insieme. Per me la missione del PD è qui: dare un'anima democratica all'Europa, prendersi cura dell'Italia da curare, affermare una identità culturale, sociale, umana, di un patriottismo dolce che restituisce dignità politica alla politica e bellezza all'Italia. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia e grazie a tutti voi per questa avventura che inizia oggi. Quindi, per chiudere, il professor Pombeni ha sintetizzato così la missione del PD, la convince? Beh sì, è una cosa interessante, naturalmente è molto interessante anche questa citazione di Orwell, che non è un autore conosciutissimo, se non vado errato, presto questa è una citazione presa da questo libro che Orwell pubblicò subito, diciamo, prima della fine della Prima Guerra Mondiale, che intitolava The Lion and the Unicorn, il leone e l'unicorno, in cui ricordava lo stemma che i soldati britannici portavano sulle loro divise, per dire appunto noi di sinistra dobbiamo essere a favore, diciamo, della guerra contro il nazismo, adesso semplifico per evidenti ragioni. È un messaggio forte questo, no? Scelto attraverso una citazione che credo non sia proprio la più comprensibile per la gente normale, ma indubbiamente lui da questo punto di vista ha ragione, cioè il problema di ritrovare una identità nazionale è un problema fondamentale anche per la possibilità di dialogo, perché se anche i vecchi partiti, che pure insomma nella Prima Repubblica non è che si amassero tutti alla follia, però trovavano la possibilità di dialogare perché tutto sommato c'erano alcune idee di nazione, alcune idee di interesse diciamo del paese sulle quali grosso modo ci conveniva, e da questo punto di vista Renzi ha ragione. Se noi non ritroviamo questo tipo di cose, non soltanto il PD farà fatica a uscire diciamo così dal normale recinto del suo consenso, ma poi farà un'enorme fatica anche a dialogare con tutti gli altri, perché se questo paese non ritrova l'idea del siamo tutti nella stessa barca, secondo me questo paese davvero non ha futuro. Grazie professor Paolo Pombeni. Grazie. Grazie a lei. Buona serata. Grazie, buona serata. Direi di prenderci senz'altro questa pausa di pubblicità. Come sempre, i vostri messaggi, tra chi insiste, ma Renzi non aveva promesso che se ne andava dalla politica, a quanto pare proprio di no, insomma, no? E quindi è inutile ritornare su questo concetto, anche se chiaro, lo aveva detto prima del 4 dicembre, poi evidentemente ci ha chiaramente ripensato. E poi qualcuno dice: Renzi lo troviamo vecchio e patetico, non lo votiamo più. Un altro dice: che bravi, avete già cominciato la campagna elettorale a favore di Renzi. No, semplicemente oggi inizia questa convention. E ci sembra che, visto che è il partito di maggioranza relativa in Italia, è il minimo parlarne. A tra poco. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, sempre qui Effetto Notte, Roberta Giordano con voi. Stavo guardando adesso un'agenzia che è arrivata poco fa a proposito del terremoto dal Consiglio dei Ministri, altri 70 milioni per interventi urgenti, visto che è un tema che deve essere sempre presente sia nell'informazione sia soprattutto al governo chi deve intervenire. Vi ricordo però le altre notizie prima di passare agli altri temi. Tra poco aggiorneremo sul crollo di ieri del ponte sulla A14 e con i due morti che ci sono stati. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Le notizie principali. Partito Democratico, Renzi lancia la sua candidatura alla segreteria ripartendo dal Lingotto di Torino. Mai più paura del futuro, dice il PD, detti l'agenda del paese. Ne abbiamo parlato diffusamente. Il vertice europeo, l'Unione Europea si spacca sul concetto di Europa più velocità, no dei paesi dell'est, Juncker sottolinea, e per permettere a chi vuole fare di più di poter fare di più. Disoccupazione diminuisce nel 2016, dicono i dati Istat, e con numeri da pre-crisi economica quasi 300.000 in più. Il ladro ucciso nel Lodigiano risulta indagato per omicidio volontario, il ristoratore che ha sparato nel Lodigiano, appunto, il sindaco dice siamo con lui. E il crollo del ponte sulla 14, ne parleremo tra pochissimo. Per quanto riguarda la partita di calcio, anticipo di Serie A Juventus-Milan, per ora il risultato è 1-1. Ieri abbiamo parlato di questa tragedia avvenuta sull'autostrada A14, il crollo del ponte provvisorio in allestimento sull'autostrada all'altezza di Camerano, nelle Marche. Questo ponte che è crollato su un'auto che stava passando in quel momento, uccidendo due coniugi e poi ferendo tre operai. Il ministro Delrio ha aperto una commissione d'inchiesta sull'accaduto e Autostrade per l'Italia oggi ha chiesto con estrema urgenza alle aziende che hanno progettato ed eseguito i lavori sul cavalcavia una relazione per accertare eventuali errori, scrivono in una nota, errori umani, e valutare possibili azioni a tutela. Ci colleghiamo allora, come ieri, con il nostro Daniele Morini. Ciao Daniele. Eccoci Roberta, ciao, buonasera. Quindi ho sintetizzato un po' questi gli aggiornamenti. Che cos'altro c'è di nuovo oggi, Daniele? Sì, allora, come abbiamo detto più volte, sentito durante la giornata, ci è voluta tutta la notte scorsa di lavoro per sezionare e smontare il viadotto 167 quello della triste notizia di ieri, prima una riapertura parziale, poi totale delle corsie di marcia, dove, come ricordavi, hanno trovato la morte Antonella ed Emidio Diomede. Intanto una notizia proprio su loro: i magistrati hanno disposto l'autopsia sui corpi dei coniugi marchigiani, che sono stati estratti subito dall'auto finita sotto il troncone crollato. Probabilmente Emidio era anche in vita per poco tempo quando è stato estratto dall'auto. Insomma, noi eravamo arrivati lì ieri proprio quando ancora le lenzuola bianche erano sull'asfalto. Per quanto riguarda i feriti, sono stati dimessi uno ieri, gli altri due nella giornata di oggi, quindi dimessi tutti e tre gli operai rimasti coinvolti nel crollo. Hanno prognosi variabili dai 10 ai 30 giorni, quindi nulla di, come avevamo già anticipato ieri, nulla di preoccupante, perché si parla di fratture, contusioni, un trauma cranico. Il fronte più forse più vivace è stato oggi quello proprio delle indagini, perché vari provvedimenti. Intanto è da dire che la Polstrada sta eseguendo i sequestri del cantiere, sta continuando ad eseguire, perché era stato sequestrato subito, quindi sequestri sul cantiere disposti dall'autorità giudiziaria, che per ora però non ha individuato nessun indagato in particolare, perché si attendono i primi risultati del lavoro dei periti, che sono scesi subito in campo, anzi direi in strada, visto che ieri li abbiamo visti già al lavoro fin dalle prime ore. E proprio la polizia stradale ha parlato oggi è la prima volta che si ipotizza un qualcosa di, si comincia a fare chiarezza, ha parlato di inclinazione anomala del cavalcavia interessato appunto da questi lavori di sollevamento, che potrebbe quindi questo cavalcavia essere scivolato per cause che sono ancora tutte da verificare, ma insomma gli osservati speciali sono i tronconi laterali, no, che agganciavano il cavalcavia ai due lati, diciamo, ai due lati dell'autostrada, ai montaroni, dove poi i cavalcavia riducono la loro altezza e si mettono nella viabilità ordinaria. Ecco, solo studiando, alzando, verificando, togliendo le impalcature da quei tronconi laterali, affermano i consulenti della procura di Ancona, si potrà comprendere cosa è accaduto veramente. Qual è stata la dinamica? E poi appunto leggevo che i PM stanno valutando l'ipotesi di reato colposo, ma bisogna vedere in quale direzione. Stavi dicendo tu, appunto, solo dopo questi accertamenti si potrà capire qualcosa di più. Grazie intanto Daniele Morini. Ciao Daniele. Buonasera. Buona serata. Ora invece parliamo dell'ultimo omaggio a DJ Fabo, il quarantenne di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, che era rimasto vittima di un gravissimo incidente, da tanto tempo era paralizzato, cieco, insomma a un certo punto ha deciso di porre fine alle sue sofferenze andando a morire in Svizzera, e questo ha riaperto molto il dibattito in Italia sul biotestamento, sul fine vita. Adriano Palazzolo, ciao Adriano, il nostro buonasera, Adriano Palazzolo, Roberta, a te, oggi nostri ascoltatori. È andato in questa parrocchia a Milano a seguire questo ultimo omaggio, no, a DJ Fabo? Sì, ero nella parrocchia di Sant'Ildefonso, per la precisione, che tra l'altro si trova a meno di un chilometro dalla sede del Sole 24 Ore. Sì. In realtà non si è trattato di un funerale vero e proprio, ma di un momento di preghiera che è stato chiesto dalla madre di Fabiano alla parrocchia, che era la stessa dove lui era stato battezzato e poi anche cresimato. Io sono entrato un attimo in chiesa e i banchi erano pieni, fuori erano anche stati allestiti degli altoparlanti per chi non è riuscito ad entrare o comunque per chi è voluto restare fuori per rispetto. Prima dell'inizio di questo ricordo, chiamiamolo così, il sacerdote della parrocchia, Antonio Suighi, è uscito dalla chiesa per spiegarci il messaggio di questo momento. Sentiamolo. L'idea centrale è proprio quella di un Signore Dio che sta vicino alla nostra vita, ci accompagna, dà senso anche alle nostre fatiche, alle nostre sofferenze e ci dà la forza di camminare. Quindi questo è il primo pensiero. Secondo pensiero importante è che, visto che questa sera saremo qua in tanti, davvero sfruttare questo momento per riscoprire chi siamo noi, dove stiamo andando, qual è il cammino della nostra vita, il senso della nostra esistenza. Adriano, poi è molto particolare questa cosa, perché se ricordiamo fino a qualche anno fa Welby, no? Il caso di Welby, che anche lui dopo anni di sofferenza è bloccato in un letto alimentato artificialmente eccetera, non gli era stato permesso, no, dalla chiesa di fare la funerali. Chiesa aveva fatto una scelta diversa. Forse adesso i tempi sono più cambiati, maturi, o comunque questo... anche quel caso è servito, insomma. E le due cose si legano, perché oggi pomeriggio fuori dalla chiesa c'era anche Mina Welby, la vedova di Pier Giorgio, e lunedì in Parlamento arriverà finalmente la proposta di legge sul fine vita. È proprio la signora Welby, prima di entrare in chiesa, ci ha lasciato una testimonianza. Lui ha voluto dare anche lui il suo corpo per una battaglia veramente necessaria per avere tutti la libertà di decidere alla fine della vita e per una buona legge, quello che aveva chiesto anche Pier Giorgio allora, e speriamo che almeno questa per i testamenti biologici vada in porto e ora che entri il 13 marzo in aula. La storia di DJ Fabo, diciamo, si conclude qui e adesso aspettiamo che questa legge vada avanti. Grazie Adriano Palazzolo. Grazie a te. Grazie Adriano. Viabilità adesso. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E eccoci sempre insieme, le notizie le avete sentite moltissime finora, riassunto all'inizio della giornata e poi abbiamo parlato diffusamente della convention lanciata da Renzi per ufficializzare la sua candidatura alle primarie del PD oggi a Torino, al Lingotto, una 3 giorni, e poi ci siamo soffermati sugli aggiornamenti per la tragedia di ieri sulla 14 con gli ultimi sviluppi di questa inchiesta che comunque va avanti per capire un po' le dinamiche e la responsabilità, e poi poco fa l'ultimo omaggio a DJ Fabo. Tra poco spazio europeo con questa diciamo rottura che c'è all'interno dell'Unione Europea, soprattutto con i paesi dell'est dell'Europa a due velocità. Vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti: appunto la convention lanciata da Renzi per ufficializzare la sua candidatura alla segreteria del PD a Torino. Basta paura, bisogna ritrovare gli ideali, ha detto, per ridare speranza al paese. Siamo con Gentiloni, ha detto. E poi l'Unione Europea spaccata appunto sull'Europa a più velocità, di cui parleremo tra pochissimo, e la vicenda del ristoratore che vicino Lodi ha sparato e ucciso un ladro che era entrato nella sua proprietà, colpito alla schiena. L'uomo è indagato per omicidio volontario e subito sono scoppiate le polemiche sulla legittima difesa. Per la partita in corso di anticipo di Serie A, Juve-Milan sempre 1-1. Europa 24 notte. E siamo qui con Sergio Nava, proprio a proposito, ciao Sergio, di questa ciao. Europa a più velocità. È stato 2 giorni, un vertice europeo a Bruxelles. Diciamo che questo è forse il tema dominante, che tra l'altro appunto ha creato una spaccatura fra i vari paesi, tra i paesi diciamo a ovest e quelli a est in Europa. Sì, purtroppo chiudiamo Europa Notte, perché Europa Notte oggi si finisce senza risolvere il dilemma su come sarà l'ultima puntata dello spazio europeo. Europa Notte andrà avanti all'infinito, diciamo, ma l'Europa Notte, Europa è Euronet, finisce qui. Non risolviamo il mistero su come sarà questa Europa del futuro, purtroppo dopo la Brexit, perché di questi 2 giorni che c'è stata a Bruxelles alla fine ha fatto risaltare più le spaccature che non l'unità, perché alla fine ci sono tante faglie. La principale attualmente è tra est e ovest, con l'ovest che i grandi paesi, quelli che si sono riuniti a Versailles lunedì, che spingono per diverse velocità. Poi c'è chi dice diverse velocità, c'è chi dà altre definizioni, anche gli stessi grandi paesi hanno una visione, devo dire, un po' diversa, e i paesi dell'est, capitanati dalla Polonia, che hanno paura di finire nella Serie B, dove stavano prima di entrare in Europa. Secondo te c'è la fregatura dietro, o effettivamente, come dice il Presidente della Commissione Europea Juncker, è solo questa Europa a due velocità per dare più possibilità a chi vuol fare di più di fare effettivamente di più? O allora, non è così semplice? La mia opinione personale, per quanto può contare, è che da un lato forse c'è una fregatura dietro, nel senso che effettivamente i paesi dell'est non si sono comportati esattamente in un modo molto europeista negli ultimi anni. Si è avuta molto l'impressione che sono stati molto più interessati ai fondi comunitari che non a sviluppare una reale dimensione dell'Europa, e quindi è anche normale che gli altri paesi, e questo lo dico in tutta sincerità, cerchino delle cooperazioni che funzionino meglio, perché la verità è che questa Europa così com'è non funziona, non sta più funzionando, tranne le grandi conquiste che comunque hanno un loro valore, l'euro, il mercato unico e altri settori dove l'Europa ha dato risultati. Non c'è più una governance, non si riesce più a trovare, quindi è normale che si cerchi di approfondire e di migliorare il funzionamento di questa Europa. Tra l'altro, proprio sulla questione dell'Europa a più velocità, oggi abbiamo sentito il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Sentiamo cosa ci ha detto. Secondo me l'intenzione è un'intenzione positiva, cioè di avere alcuni paesi che cominciano a tracciare un percorso che gli altri potranno seguire successivamente. Penso per esempio alla politica di difesa, dove Italia, Francia, Spagna e Germania possono avviare un percorso per avere un approccio di difesa comune che poi potrà essere allargato a altri paesi che lo vorranno. E quindi Roberta, questo così ha parlato Antonio Tajani a Radio 24, quello che voglio dirti è che bisognerà aspettare le prossime due settimane, vertice europeo di Roma, vertice della dichiarazione di Roma che dovrà rilanciare l'Europa veramente e non più solamente sulla carta, dovrà dare un segnale reale di unità. Si lavorerà nei prossimi 14 giorni su questo testo, speriamo che siano alla fine buone notizie, che veramente si trovi la formula magica, se vogliamo, per far ripartire un progetto che ha sicuramente enormi meriti ma che ha bisogno realmente di produrre risultati concreti e avere una governance reale. Grazie Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso vogliamo aggiornare sulla partita che vedo al pareggio Juve-Milan 1-1. Giovanni Capuano? 1-1, quinto minuto del secondo tempo ed è un pareggio davvero difficile da raccontare. Vi parlavamo del dominio della Juventus, dominio che era poi sfociato nella rete di Benatial al 30esimo. Un gol del difensore servito da un bel assist di Dani Alves. Ebbene, a due minuti dalla fine del primo tempo, nel primo tiro in porta del Milan, è arrivato il pareggio di Carlos Bacca. Primo tiro in porta, primo gol Bacca, che è stato servito dallo spagnolo Deulofeu. Posizione di leggerissimo offside, però quasi impossibile da vedere per l'arbitro Massa e per i suoi assistenti. Bacca è stato implacabile e ha segnato la rete dell'1-1. Dunque, pareggio assolutamente beffardo in questo secondo tempo. Si è cominciati sugli stessi ritmi dei primi 45 minuti e proprio pochi istanti fa Donnarumma è stato chiamato a un grande intervento su un calcio di punizione di Pjanic dal limite dell'area di rigore, tuffo sulla destra del portiere del Milan, deviazione in calcio d'angolo, Milan che adesso rischia ancora su una deviazione. Ci sono altre proteste da parte dei giocatori della Juventus, è una partita abbastanza complicata questa da gestire per il direttore di gara. Sugli sviluppi di questo cross c'è un sospetto tocco di braccio di Bacca all'interno dell'area di rigore. Juventus che sta chiedendo con forza il calcio di rigore, è invece calcio d'angolo secondo il direttore di gara. 1-1, siamo in una fase forse decisiva della partita perché la Juventus in questo inizio di ripresa sta assolutamente spingendo per ritrovare quel vantaggio che aveva meritato nel primo tempo e che è sfumato poi al 43esimo per il gol di Bacca. A te Roberta. Grazie Giovanni Capuano, e su questo risultato invece andiamo a vedere che risultati ci darà il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Paolo, mi sembra ma che sia scoppiata l'estate, via. Beh, estate forse un po' troppo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Comunque sì, in effetti nel weekend, ma anche settimana prossima, non avremo grandi perturbazioni sull'Italia, quindi si apre un periodo abbastanza prolungato con tempo più che discreto, direi. Ora in questi giorni abbiamo anche toccato temperature particolarmente alte, special nord e sulle regioni tirreniche. Nel weekend avremo un lieve calo, ma si starà comunque bene, quindi la primavera ci mostra la sua faccia migliore e continuerà a farlo, ti ripeto, per diversi giorni. Diversi giorni quanti? Si può quantificare? Allora, settimana prossima, ti ripeto, grandi perturbazioni non ne passeranno, secondo me arriviamo fino al 25 del mese senza che capiti nulla di particolare, quindi questo marzo pazzerello in realtà quest'anno non lo è, e per fortuna. Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia, ciao Paolo. Buon tempo a tutti, ciao ciao. E adesso direi che è il momento di lasciarci, vedo nessun nuovo gol tra Juventus e Milan, ma tanto lo sapete che poi ritorno alle 22 per aggiornarvi brevemente.